A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Siamo partiti da via Moscova, io ero con la mia macchina, c'era un'altra macchina che è entrata con noi nel parcheggio del Piebergo Trivulzio. Sono entrato con in mano questa valigetta con dentro la telecamera, finché mi ha fatto sedere, le ho dato la busta con i soldi. Quel 17 febbraio 1992 non funzionò, ma da quell'arresto di Mario Chiesa su denuncia di Luca Magni iniziò ufficialmente il ciclone Mani Pulite e ben presto, dopo gli arresti, le indagini sempre più ampie, dopo le sfilate dei politici in tribunale, i cortei in piazza e dopo le monetine del Rafael, la Prima Repubblica sarebbe crollata, senza seppellire però con sé la corruzione. Infatti, 20 anni dopo, si ruba ancora, ma per sé, riflette Francesco Greco, l'unico di quel pool di magistrati tuttora in trincea, in procura. Al quarto piano del più celebre dei palazzi di giustizia, il suo ufficio da coordinatore del Dipartimento dei Reati Finanziari è tra i principali osservatori della criminalità economica nostrana, che oggi, avverte il procuratore aggiunto, è più pericolosa di allora. E allora da qui parte questa intervista con Francesco Greco, che dà a ciascuno il suo e ai partiti manda a dire: non serve aspettare una legge per cambiare in nome della trasparenza. La criminalità economica negli ultimi 20 anni è notevolmente aumentata. Abbiamo un quadro di pericolosità della criminalità economica molto più ampio che nel 92, dove essenzialmente c'era un problema di corruzione e finanziamento illecito della politica invece molto più articolato e completo. Oggi si ruba essenzialmente per arricchirsi. Lei ha parlato anche di gangsterismo finanziario. Un paese in cui si calcola che tra corruzione e evasione fiscale vengono sottratti alle casse dello Stato circa 200 miliardi l'anno, è un paese che, se non pone rimedio a questo problema, non ha futuro. D'altra parte mi sembra che ormai sia consapevolezza un po' di tutti quanti che questo è il problema centrale dell'Italia. Il presidente della Corte dei Conti ha detto che secondo lui l'Italia non raggiunge la sufficienza nella lotta a corruzione ed evasione. Secondo lei che voto darebbe? Se il voto deve essere dato agli investigatori, siamo ben oltre la sufficienza, perché devo dire che l'Italia è un paese in cui i processi sono sempre fatti e non si è mai guardato in faccia a nessuno, a differenza di tanti altri paesi. Se invece dobbiamo guardare dal punto di vista delle leggi, siamo ben oltre la insufficienza, cioè nel senso che praticamente tutta una serie di leggi che dal 92 a oggi sono state varate non solo non hanno assolutamente aiutato la lotta alla corruzione, ma addirittura l'hanno resa molto molto più difficile. 20 anni fa Mani Pulite, appunto Tangentopoli, scoprì un sistema organizzato di corruzione tra partiti, imprese, mazzette e appalti. Oggi in realtà le ultime inchieste, P3, casi Milanese, casi Bisignani, insomma inchieste di vario tipo, mostrano che sono cambiate, potremmo dire, le monete di scambio. Tutto questo visto dal fronte degli investigatori rende più difficile andare ad aggredire la corruzione? Dire due cose. La prima è che mentre nel 92 c'era un articolato e organizzato sistema di finanziamento illecito della politica, all'interno del quale poi ci si appropriava anche di denaro, ma sostanzialmente il motore era il lobbismo occulto, direi, no? E il rapporto tra partiti si regolava attraverso questa forma di finanziamento illecito e le tangenti. Oggi invece la sensazione è che ci siano, da un lato, una corruzione molto diffusa ma finalizzata essenzialmente all'arricchimento personale, d'altra parte, come si è visto in alcuni scandali recenti, il problema dei partiti è come spendere i soldi ormai e non come averli, perché sembra che siano dotati di ampie disponibilità, tant'è che addirittura le vanno a investire in Tanzania oppure non si accorgono che 13 milioni di euro sono spariti. Cioè io sono rimasto piuttosto colpito dal fatto che ci sono queste così rilevanti giacenze, diventa quasi un business mettere su un partito ormai, no? Non hanno problemi di liquidità? No, assolutamente, perché ho letto delle cifre, non so se sono vere, ma se sono vere devo dire che colpiscono, no? Una plusvalenza da 70-80 milioni, un povero imprenditore deve faticare per crearsela in diversi anni. anni, no? Al di là di questo fatto dell'arricchimento personale, si è sviluppato una sorta di lobbismo, cosiddette cricche, P2, P3, P4, quelle che sono, no? Dove sostanzialmente si realizzano gli scambi di favori, e questo tipo di favori sono anche di basso profilo. Le cifre che giravano ai tempi di Mani Pulite non le abbiamo più riviste. Oggi si scambia la escort contro un'altra prestazione, soprattutto si gioca molto su favori clientelari tipo l'assunzione di parenti. C'è un dibattito anche dopo gli ultimi casi sulla gestione dei fondi che i partiti hanno. È auspicabile un adeguamento al dettato costituzionale che prevede norme sulla trasparenza e l'organizzazione dei partiti. Una riforma di questo tipo, sono circa 60 anni che la stiamo aspettando, potrebbe anche essere anticipata da partiti di buona volontà che vogliono marcare una differenza e una discontinuità con delle forme di autoregolamentazione che tuttavia mi sembra che nessuno abbia ancora adottato. Non è necessario aspettare la legge per cambiare. Un codice interno. Si possono adottare dei codici di autoregolamentazione, addirittura, visto che hanno tutti questi soldi, anche commissionare un'adeguata rendicontazione a soggetti indipendenti e rendere poi pubblico il bilancio in un sito internet dove tutti possono andare a vedere quanti soldi hanno ricevuto, perché li hanno ricevuti e come li hanno spesi. Sarebbe un buon esempio. A proposito appunto di politica e di che fare, quei dati ormai sono concordi nel dire che sicuramente in questi 20 anni la corruzione non è affatto diminuita. Le cose da fare anche per mettersi in linea con le indicazioni dell'Europa sono tante: corruzione privata, autoriciclaggio. Il ministro Severino ha anche proposto l'introduzione di nuovi reati, però allo stesso tempo in Parlamento è anche fermo il DDL anticorruzione. Secondo lei questo nuovo governo, un governo di tecnici, ecco, sul fronte della corruzione che cosa dovrebbe fare? La prima cosa che dovrebbe fare è adeguarsi alle convenzioni internazionali, perché l'Italia è inadempiente rispetto a tutte le convenzioni internazionali che noi abbiamo ovviamente sottoscritto. Impongono alcune cose: la trasparenza dei flussi contabili, che significa riforma del falso in bilancio, la trasparenza dei flussi finanziari, che significa riforma del riciclaggio, una prescrizione lunga che renda effettiva la possibilità di fare fino in fondo un processo. Serve la volontà di ratificare le convenzioni internazionali. Nel 1999 l'Italia ha sottoscritto la Convenzione europea sulla corruzione privata, e da allora che stiamo aspettando una legge su un fenomeno criminale che emerge in tutti i nostri processi, cioè il fatto che anche nel settore privato c'è un altissimo livello di corruzione. Lei ha proposto l'introduzione, o forse una reintroduzione, di una authority, un'idea che poi ha ripreso anche e rilanciato il vicepresidente del CSM. Ecco, in che cosa dovrebbe essere diversa questa authority da una che c'è già stata ed è fallita? No, è necessario che ci sia un'autorità di coordinamento tra diversi apparati dello Stato che attualmente o non vanno d'accordo o si ignorano, e che faccia un po' da volano per far girare le informazioni. Il problema delle authority in Italia è che sono dei poltronifici, per cui la competenza tecnica, la capacità, soprattutto la indipendenza viene meno rispetto all'appartenenza e all'accordata, no? Quando venne chiusa l'authority anticorruzione venne fatta una scelta opportuna, visto e considerato che in quel posto c'erano andate sempre persone che non si erano mai occupate di corruzione. Non esperti della materia. Assolutamente. Ecco, le authority sono importanti perché svincolano il controllo di un certo settore dai partiti, però devono essere gestite da persone che hanno alta professionalità e alto spirito di indipendenza, se no non servono a niente. I dati della Banca d'Italia non vengono veicolati all'Agenzia delle Entrate per la lotta all'evasione fiscale, no? Tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza alcune volte non corrono buoni rapporti, la Consob sta da un'altra parte. Insomma, lo Stato italiano ha un sacco di dati per intervenire dalla lotta all'evasione alla lotta alla corruzione, ma non non riesce a interconnetterli, no? E questo è un grosso problema. Più volte inchieste hanno ricostruito anche che le autorità di vigilanza non si erano accorte spesso di quanto succedeva all'interno delle aziende. Secondo lei c'è qualcosa da modificare anche proprio nel meccanismo dei controlli? A parte il discorso che facevo prima sulla professionalità e sull'indipendenza delle autorità, credo però che ci sia un ulteriore problema, che è la scarsa chiarezza sulle finalità. Noi vediamo spesso che le decisioni vengono prese in modo consociativo tra controllati e controllori. È una cultura questa che io per esempio non condivido, ma mi rendo conto che è un po' la prassi che si è affermata nel corso degli anni. Una authority che controlla un determinato settore, in quel settore deve essere un cane da guardia e un cane da salotto. La cultura consociativa, cioè del mettiamoci d'accordo, tra virgolette, può essere una opzione ed è quella che è sempre stata scelta da molte autorità, ma secondo me non è quella che ci vuole. Quel cane da salotto è tempo che diventi cane da guardia. Che si chiarisca che deve essere un cane da guardia, perché credo che si sconti anche, come dire, una opacità sui fini che deriva proprio da come sono state costruite queste autorità e da come si sono evolute nel tempo. Poi c'è anche un problema di efficacia. Negli Stati Uniti, quando la SEC si muove da una sanzione, la gente trema. In Italia invece tutti fanno come le canne al vento, perché tanto passata la bufera arriva la prescrizione. A ciascuno il suo. Su un punto Francesco Greco è perentorio. Le ricchezze portate oltre confine devono rientrare o con le buone o con le cattive. Mentre il dibattito sugli accordi internazionali anti-evasione rimbalza da una sponda all'altra dell'Atlantico, il magistrato che più combatte in Italia la criminalità economica avverte: l'esodo dei soldi verso l'estero è ricominciato. A 20 anni da Mani Pulite, l'unico di quel pool ancora rimasto in procura a Milano parla in questa seconda parte di A ciascuno il suo di lotta all'evasione, di controlli mancati e dei tanti passi che il nostro paese deve ancora compiere contro la corruzione, causa, dice, del declino del paese. Il primo e fondamentale è quello della prescrizione. Se non la si scopre mentre avviene la corruzione, praticamente oggi c'è l'impunità, e non riguarda questo solo la corruzione, riguarda ad esempio, udite udite, anche la frode fiscale, perché tutti i reati fiscali si prescrivono in 7 anni e mezzo. Ora noi generalmente i fatti di frode fiscale ci arrivano con un ritardo di circa 5 anni, non si ha nemmeno il tempo di approfondire un fatto. Questo ovviamente gli imputati lo sanno e fanno un po' come le canne al vento, piegano un attimo la testa e poi dopo tanto si va in prescrizione. Questo favorisce un'altra cosa che a me non è mai piaciuta, che è la custodia cautelare preventiva, no? Certo, che è stato anche un altro grande tema, diciamo. È come se a un certo punto si dicesse: so che tu andrai in prescrizione, io ti do una condanna, ma è una cosa che non va bene. La condanna la devono dare i giudici. Tutti sanno che questo sistema non funziona perché ha numeri altissimi, perché una serie di leggi lo hanno devastato, però è anche necessario che funzioni. Dalla lotta all'evasione fiscale dipende l'eguaglianza e la giustizia sociale, quindi io non credo che bastino solo le operazioni di immagine, no? È necessario anche che ci sia una sanzione seria per chi evade le tasse. Che non c'è. Secondo lei quello che fino adesso anche il governo ha fatto sono state operazioni solo di immagine? Cominciare a dire in un paese abituato a non pagare le tasse devono essere pagate, direi che è un fatto rivoluzionario, quindi va bene. Il problema è che o faccio un blitz al giorno, oppure devo costruire un sistema che funzioni. Dal punto di vista repressivo fa acqua da tutte le parti, perché la nostra legge penale sul punto fa ridere. Sa che l'evasore totale, cioè quello ignoto al fisco, ha una pena inferiore a quello che fa 4 fatture false. Che razionalità c'ha questa legge? Bisognerebbe, diciamo, passare alla fase 2. Sanzioni pesanti ma anche effettive. Quello che vorrei è che si faccia qualcosa adesso, non so se in seconda o terza fase. L'importante è che arrivi, e nel far qualcosa nella lotta all'evasione c'è anche tutto il capitolo dei soldi all'estero, un tema che adesso è stato anche rilanciato dagli accordi che gli Stati Uniti stanno stipulando con alcuni paesi. Che cosa bisogna fare? Bisogna riportarle indietro con le buone e con le cattive. Se con le buone non ci si è riusciti, perché i condoni, soprattutto l'ultimo, sono stati dei mezzi mezzi fallimenti si devono adottare delle norme per riportare indietro, direi tra virgolette, mano militari. Ho trovato molto interessante l'articolo di Guido Rossi proprio sul Sole 24 Ore, che faceva riferimento a un'attività di un giudice di New York che ha indagato per riciclaggio una banca svizzera che dava rifugio ai soldi degli evasori americani. Queste sono strade serie da percorrere, soprattutto in Italia in questi anni. C'è stato un esodo biblico di capitali dall'Italia all'estero, dicono che attualmente sia ripreso. Rispetto a tutto questo, i processi contro capitali portati illecitamente sono pari allo zero. Sembra che solo a Lugano ci siano più di 125 miliardi di euro depositati. Di italiani. Italiani, sì. E quindi è chiaro che la cosa è fondamentale per riequilibrare la tassazione. Chi è che non ha controllato, chi è che avrebbe dovuto farlo? C'è un problema di cultura investigativa e c'è un problema di indirizzare o meno su certe cose anziché su altre. Probabilmente è stata un po' trascurata questa storia dei capitali all'estero. Oggi si fa un gran parlare anche di questi accordi con la Svizzera. Io devo capire ancora se si tratta di un ennesimo sostanziale condono, magari però a un'aliquota superiore. Devo capire come si può superare il problema dell'anonimato, come viene considerato un conto di un italiano però intestato a un Anstalt Liechtenstein. Ci sono molte cose che non mi convincono. Quindi rispetto al dibattito che pur c'è stato di una nuova tassazione sui capitali già scudati? Credo di essere stato io uno dei primi, se non il primo, a indicarla, no? Il problema è sui soldi che attualmente sono all'estero. Sarebbe il caso anche di consultare gli inglesi e i tedeschi per capire se questo sistema ha funzionato, perché mi è stato detto che incominciano a esserci dei pentimenti. È una storia molto seria. Io però quello che dico sempre in questa storia qui, come anche in altre vicende, tipo ad esempio le società di rating, non è necessario aspettare accordi internazionali per regolare in via domestica alcune situazioni. Si possono tranquillamente fare delle leggi in Italia sulle situazioni italiane. Poi se arrivano anche degli accordi internazionali, ben vengono, cioè per esempio le società di rating, ma chi ha detto che bisogna aspettare una regolamentazione europea o internazionale? Io, se questi scorazzano sul mio territorio, posso ben mettere delle leggi di regolamentazione, no? Anche rispetto a società di rating appunto internazionali. Certo. Abbiamo raccontato la corruzione di oggi, ecco, ma 20 anni fa, dopo l'arresto di Mario Chiesa, vi eravate da subito resi conto dove, diciamo, potevano portare quegli interrogatori, quegli arresti? C'erano stati il processo ICOM che avevo fatto proprio io, proprio dove era stata coinvolta anche la metropolitana milanese, no? Poi c'erano stati lo scandalo Codemi, quello del carcere d'oro, cioè Gerardo Colombo aveva fatto sempre negli anni 80 i fondi neri dell'IRI, cioè si era capito che c'era tutto un mondo di illecito e di segreto, no? Dopo 2 o 3 mesi dall'inizio dell'indagine, cioè, adesso me lo chiedo, ci fu un'intervista di Gerardo Colombo all'Espresso, sì, in cui già auspicava una soluzione politica, perché in Italia purtroppo si scarica sulla magistratura il problema, la corruzione, la mafia, l'immigrazione, e così via, no? E poi, poiché la magistratura può evidenziare un problema, può risolvere alcuni piccoli problemi, ma certo non può risolvere un fenomeno, perché non è compito della magistratura che indaga su casi singoli, il discorso era: voi politici fate qualcosa. E non è stato fatto niente. Questo fino alla fine dell'indagine, o comunque fino al 94. Dopo è cominciata l'attività del gambero, per cui hanno incominciato a rivedere tutta una serie di norme per evitare che si potessero fare più questo tipo di indagini. Voglio ricordare da ultimo che nel 94-95 ci fu anche una commissione parlamentare di indagini sul fenomeno della corruzione, no? Certo. Che fece un ottimo lavoro, l'elaborato, messo in un cassetto, praticamente io penso di essere stato uno dei 4-5 persone in Italia che se lo è letto. Non mi ricordo che dopo la presentazione di questo elaborato ci sia stato un dibattito in Italia su come contrastare la corruzione, come se fosse un problema che non interessa a nessuno. Insomma, invece, come si vede, è un problema che segna, secondo me, la crescita zero del paese e il declino di questo paese. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate di A Ciascuno il Suo dal sito radio24.it nella sezione podcast, oppure ci trovate direttamente su iTunes. Siamo ancora sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, e sull'audioblog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.